Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino dal titolo Fons Bandusia. Per mari e per monti, impervi e vallate, lande solitarie l'ho cercata, la fonte che fu d'Orazio ispirazione, e tante volte ho pensato d'averla trovata, ma no, non era quella giusta. Sei ormai persa nel tempo e nei ricordi del poeta che grande ti fece, ma non smetterò di cercarti. O Giove, che onore sarebbe bagnare le labbra nella Fons Bandusia, dono degli dèi all'uomo per le sue pure, limpide acque, per i suoi benefici poteri. Ma forse è per l'uomo d'oggi onore troppo grande.